Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, come immaginate, se avete ascoltato i nostri GR24 e anche Oscar Giannino che precede questo programma, il tema oggi grosso della giornata economico-finanziaria riguarda di nuovo il settore auto. Che cosa è successo? Sono due cose un po' diverse. Da un lato, questa mattina, in un insieme di dati che arrivavano dalla Russia negativi sul calo delle riserve internazionali a 368 miliardi di dollari e anche di una multa che verrà dalla Russia data a Google, che varrà più o meno il 7% del giro d'affari, in realtà è arrivato un dato sempre dalla Russia su un crollo letterale delle immatricolazioni auto, meno 46%. Le vendite di auto in Russia nel 2015, un dato anche peggiore della stima già bella negativa del 36% di calo. E questo ha dato la prima botta ai titoli auto europei. Poi cosa è successo? È successo che la casa automobilistica francese Renault è arrivata a perdere oltre il 20%, perché oltre al calo delle vendite di auto in Russia, dove il gruppo ha è esposto con il marchio Autovaz, ci sono le indiscrezioni famose sulle irregolarità nei test sulle emissioni anche per il gruppo Renault. E questo per quello che riguarda il motivo per cui questa mattina tutti i titoli del settore auto hanno iniziato a perdere in maniera pesante. Non è esclusa da questo calo pesante Fiat, che adesso perde il 7,30%, ma è stata più volte sospesa a Piazza Affari per eccesso di ribasso, è arrivata a perdere anche il 10%, per un altro motivo ulteriore, e cioè la possibile causa da parte di due concessionari di Chicago che hanno accusato Fiat Chrysler di aver tentato di corrompere i concessionari per ottenere una falsificazione sui dati delle vendite nell'ultimo giorno del mese per poi correggerli all'indomani. Allora, sono tre aspetti diversi, diciamo: crollo delle immatricolazioni in un mercato comunque importante come quello russo, ipotesi su Renault che vi siano state anche che siano stati truccati i dati sulle emissioni anche per quello che riguarda Renault, quindi lo scandalo Dieselgate che si allargherebbe anche al gruppo francese e che chiaramente poi fa fare una riflessione su tutti gli altri marchi, e la vicenda specifica di Fiat. Dico subito che Fiat ha in una nota specificato che è infondata la causa del dealer americano, nessun atto di citazione è stato notificato. Su Automotive News si legge che i responsabili erano a conoscenza delle dichiarazioni falsate e premiavano i manager locali per il raggiungimento degli obiettivi. Però, ripeto, in prospettiva è chiaro che la cosa più pesante di tutte riguarda Renault, anche perché il ragionamento, ripeto, si può fare sul resto del settore. L'ipotesi investigativa è che alcuni motori diesel della Renault siano equipaggiati con un software, eccoci di nuovo al software, che consente di eludere i controlli sulle emissioni. Le forze dell'ordine hanno sequestrato numerosi PC ai dirigenti, la società ha confermato le ispezioni della settimana scorsa e ha aggiunto che gli investigatori faranno ulteriori controlli nelle fabbriche. In seguito all'esplosione del caso Volkswagen, Renault aveva promesso di investire 50 milioni per far sì che i livelli di emissione effettive delle sue auto fossero in linea con quelli registrati durante i test. Renault però, la Direction Générale de l'Energie et du Climat, interlocutore pilota della Commissione Tecnica per conto del Ministero francese, ritiene fin d'ora che la procedura in corso non stia evidenziando la presenza di un software truccato. Ma insomma, ce n'è abbastanza, anche perché se aggiungiamo che il presidente della BEI ha detto che la BEI ha deciso di sospendere, la Banca Europea degli Investimenti, ha deciso di sospendere tutti i nuovi prestiti a Volkswagen finché non saranno resi noti i risultati delle diverse indagini, beh, ce n'è abbastanza per buttare giù tutti i titoli del settore auto. E ripeto, Fiat perde da noi il 7,30%, Exor, che è la controllante della famiglia Agnelli, meno 6,60%, Ferrari meno 5%, scende a 38 euro per azione. Poi va male tutto il settore in generale e la borsa in generale, meno 1,26% Milano, meno 1,50% Parigi, meno 1,30% Francoforte, meno 0,40 Londra, l'America invece guadagna sul Dow Jones l'1,07%, qui cito solo i cali peggiori: Finmeccanica meno 4,30, Azimut meno 3,40, Campari meno 2,80 come UbiBanca, Mediolanum meno 2,5, A2A meno 2,40 come Unicredit. Il 2,20% lo perde Mediaset, ma anche Prismian, Steam Microelectronics e Anima. Chi si salva oggi? Beh, di nuovo le popolari. Ieri ne abbiamo parlato a lungo. Questa volta la Popolare Milano, sempre sotto i riflettori, più 2,5%, come il Banco Popolare, più 1,30%. Ma oggi ancora più forte la Popolare Emilia Romagna, più 3,35%, il Monte dei Paschi, più 2,70%. Bene Eni, più 2,20%, e Saipem, più 0,60%. Parleremo quindi tanto di auto, ma anche della chiusura delle indagini sulla vicenda Antonveneta Monte dei Paschi e, se ce la facciamo, anche della Bad Bank, delle indicazioni che stanno arrivando dall'Europa. Da Bruxelles. 349-238-6666 per gli sms e per WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Mi chiedete se Eni risale perché ci sono novità sul prezzo del petrolio. No, nel senso che a $30,7 al barile. E sempre dalla Russia oggi si è avuta un'altra notizia che Mosca potrebbe tagliare la produzione del 6,5%, la taglierebbe Transnet, che è monopolista russo, che distribuisce il 90% del greggio russo. Questo perché le compagnie petrolifere hanno fatto domanda di esportare nell'arco di quest'anno 215 milioni di tonnellate di greggio, che vorrebbe dire il 6,5% in meno rispetto al 2015. E oggi prudente anche la Banca d'Inghilterra, che ha lasciato i tassi fermi e quindi il tasso di interesse in Gran Bretagna resta allo 0,5%, mantiene a 375 miliardi sterline e quindi più di 400 miliardi di euro le dimensioni del suo portafoglio di titoli obbligazionari in vista di un 2016 che si promette, lo dice la Banca d'Inghilterra, incerto e difficile sia sulle prospettive di crescita che sull'inflazione. Restiamo in Europa. Allora, anche la Banca Centrale Europea fa notare che sono aumentati i prestiti alle famiglie dell'area euro nel terzo trimestre e anche alle imprese complessivamente. Ieri c'era stato un dato, l'altro ieri, positivo della Banca d'Italia sui prestiti delle banche alle famiglie e questa volta positivo anche sulle imprese. Le banche fanno notare che le richieste di mutui degli italiani nel 2015 sono aumentate del 53%. Ma l'importo medio è leggermente sceso a 122.000 euro contro i 124.000 dell'anno precedente. Della Bad Bank cercheremo di parlare nella seconda ora. La Bad Bank è l'ipotesi di riuscire a creare una banca in cui confluisca la maggior parte delle sofferenze bancarie, sono oltre 200 miliardi i crediti che le banche hanno erogato e che adesso sono diventati sofferenze, cioè non riavranno più indietro. Da più parti si sostiene che proprio queste sofferenze non permettono alle banche realmente di tornare a prestare soldi alle imprese. Allora, Bruxelles dice che l'Italia ha dato un piano informale, siamo pronti a lavorare assieme. La proposta di Bad Bank presentata a Bruxelles, secondo invece il ministro Padoan, è leggera ma efficace. La Banca Europea degli Investimenti dice che è prematuro parlarne, ma seguiamo, diciamo, il dialogo in corso tra Bruxelles e Roma con interesse, e che per l'economia italiana, sempre la Banca Europea degli Investimenti, ci sono segnali positivi di ripresa e buone aspettative. lo ha detto appunto il vicepresidente Dario Scannapieco durante la conferenza sull'attività del 2015, il calo dei tassi e delle materie prime hanno aumentato il reddito disponibile delle famiglie. La produzione industriale, allora, frena italiana, frena a novembre su ottobre, meno 0,5%, resta positiva dello 0,9% invece sull'anno prima. A ottobre il dato era più positivo perché era positivo sia mese su mese, più 0,5%, che anno su anno, più 3%. L'unico tra i principali raggruppamenti di industria a registrare una variazione negativa sia sul mese che sull'anno è quello dei beni di consumo. E poi c'è la stima su quello che sarà il dato sulla produzione industriale nel mese di dicembre, la stima del Centro Studi Confindustria, più 0,1% su novembre e più 1,8% sull'anno prima, in realtà a parità di giornate lavorative sarebbe più 1,1%. Infine ancora due notizie prima di partire con l'approfondimento sull'auto. Allora, la pubblicità, il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia secondo la Nielsen è cresciuto tra gennaio e novembre nel 2015 dell'1,5%, considerata anche la porzione web. Relativamente ai singoli mezzi, la TV ha fatto più 5,4%, segno negativo i quotidiani anche a novembre meno 13,5% e negli 11 mesi del 2015 hanno fatto meno 7,3% e anche i periodici meno 4,6%. Buono l'andamento positivo della radio, anche se rallenta, buono l'andamento della raccolta per il mezzo radio, più 2,4%, un anno assolutamente positivo nel periodo gennaio-novembre, più 9% per le radio complessivamente. Che riguarda questa radio il dato è anche migliore, ma ne parleremo in un'altra occasione. È una crescita della raccolta pubblicitaria per Radio 24 a due cifre e ampiamente superiore al 20%, mettiamola così. Altra notizia riguarda invece le ore di cassa integrazione. Il dato è buono, nel senso che nel 2015 le ore di cassa integrazione sono state 677 milioni, il 35% in meno rispetto al 2008. Anche a dicembre si conferma questa tendenza, 42 milioni e mezzo di ore di cassa integrazione, meno 52% rispetto al dicembre del 2014. Complessivamente nel 2015 il numero di ore di cassa integrazione sono state le più basse come totale rispetto dal 2008, da quando è iniziata questa crisi. E poi il DDL appalti, il Senato ha approvato con 170 sì, 39 e 40 astenuti in via definitiva il disegno di legge delega sugli appalti pubblici. Adesso il governo, come sempre in questi casi, dovrà approvare i decreti attuativi e su questa riforma degli appalti si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, la firma oggi del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il Senato oggi ha approvato la nuova legge delega per la riforma degli appalti pubblici. Si tratta di una legge che potenzialmente può avere un impatto economico davvero significativo. Basta ricordare un numero per capirlo. Il sistema degli appalti pubblici nel nostro paese vale più di 100 miliardi di euro all'anno. Tante risorse, tanti soldi pubblici, troppo spesso purtroppo spesi male. Il ministro Graziano Del Rio ha assicurato che l'attuazione della legge delega avverrà in pochi mesi, così da mandare in pensione gli oltre 600 articoli che compongono l'attuale codice degli appalti. E il primo obiettivo della nuova legge in effetti è proprio la semplificazione, perché in questo ambito la complessità delle norme, le deroghe alle regole hanno consentito gli abusi e le ruberie che ben conosciamo. Anche per questo il cuore della riforma è il nuovo ruolo dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ora guidata da Raffaele Cantone, che avrà molti più poteri sia per assicurare la correttezza delle procedure sia per garantire l'effettiva esecuzione delle opere. Le novità sono numerose sulle gare con i bandi tipo che garantiranno trasparenza, ci saranno meccanismi più efficaci per evitare gli aumenti di costi legati alle varianti in corso d'opera, per ridurre il contenzioso che spesso blocca i lavori per anni e anni. Insomma, le premesse per arrivare a un sistema più efficiente ci sono tutte. Vedremo se il governo riuscirà a costruirlo velocemente. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, partiamo col primo tema, le auto. Una risposta brevissima agli ascoltatori. Guardate che la pubblicità va bene su Radio 24, il mezzo radio ha fatto più 9%, ricordavamo prima i dati Nielsen, nel 2015. Io ho detto Radio 24 non solo ha seguito la tendenza, ma ha avuto un incremento a due cifre superiore al 20%, ma non è l'aumento degli spazi pubblicitari, perché per legge c'è un limite all'affollamento degli spazi pubblicitari. Lo dico che mi sta scrivendo, ce ne siamo accorti che la pubblicità è aumentata a due cifre, è il valore della raccolta pubblicitaria che è aumentata a due cifre. Gli spazi pubblicitari hanno un tetto di legge, e come tale noi lo rispettiamo, che non puoi superare, quindi o la fai pagare di più o trovi altre formule, ma non puoi aumentare lo spazio pubblicitario. Alcuni di voi notano che quando siamo al massimo del caricamento c'è tanta pubblicità, ho capito, noi campiamo di questa, è mica del canone in bolletta, lo dico per inciso, è al di là del servizio pubblico, perché un conto è essere di proprietà pubblica, un conto è il servizio che si fa, perché poi magari un giorno andremo a affrontare il tema di cosa vuol dire fare servizio pubblico. Lo puoi fare anche da privato, guardate i programmi televisivi, ce ne sono tanti che pur privati fanno servizio pubblico, o programmi del servizio pubblico che o della TV o radio pubblica che non fanno servizio pubblico. Quindi allora andiamo avanti, dai, l'auto oggi è una bella giornatina. E allora ringrazio Andrea Malan in collegamento con noi da Detroit. Buonasera Andrea, buongiorno Andrea per te, inviato del Sole 24 Ore, ma non per parlarci del Salone dell'Auto. Grazie anche a Fabio De Rossi che ci ha raggiunto in collegamento, vice direttore di Quattro Ruote, che è la Bibbia, diciamo, per chi si occupa di auto. Buonasera anche a te Fabio. Buonasera Sebastiana, grazie per la Bibbia. Bibbia, sì, tanto non siete in concorrenza, è facile, diciamo, fare il... E grazie anche a Giuseppe Berta, professore di storia dell'industria alla Bocconi di Milano e colui che ha diretto l'archivio storico della Fiat dal 96 al 2002. Buonasera professore. Buonasera. Allora, Andrea Malan, la prima domanda per te, poi la giro anche a Fabio De Rossi, è molto semplice. Di queste tre vicende, crollo delle vendite auto in Russia del 46% nel 2015, inchiesta sulla Renault, sulle centraline, il software che avrebbe truccato le emissioni, questa è l'ipotesi, invece accuse dei concessionari, di un paio di concessionari alla Fiat. Siccome il caos oggi regna sovrano, possiamo metterla in ordine di importanza e di danno, visto che oggi la Renault è arrivata a perdere il 20%, ma la Fiat continua a perdere il 7,70%? Ma diciamo che io cercherei di metterli insieme. A parte il caso russo è scontato, si sapeva che il mercato russo andava male, quindi è una registrazione finale. La Russia con un meno 36 e il Brasile con un meno 24% sono stati l'anno scorso i due punti neri dell'automondiale, insieme al rallentamento in Cina. Le altre due vicende, quindi ipotesi di Dieselgate per Renault e ipotesi di frode di qualche tipo da parte di Fiat, di cui la accusa questi concessionari, Fiat nega decisamente, possono essere messi insieme in questo senso. Il crollo di oggi sui mercati, anche senza alcuna prova per ora, senza alcuna dimostrazione che ci sia del vero in queste due vicende, dimostra il nervosismo del mercato. Perché il nervosismo? Uno, sulla congiuntura a breve termine. Il mercato americano sappiamo che ha fatto un record l'anno scorso, forse si chiedono oggi gli investitori, forse spinto un po' anche da pratiche commerciali aggressive, magari non fraudolente come sostengono i due concessionari, ma sicuramente anche negli Stati Uniti le case, e non solo Fiat Chrysler, hanno pompato per gonfiare questo mercato. Quindi il dubbio è: cosa succederà quest'anno? Abbiamo raggiunto il massimo delle vendite? Le vendite rallenteranno dal 2016 in poi e quindi priveranno tutti i costruttori automobilistici di quella che è una delle poche fonti consistenti di utili degli ultimi tempi? Questa è la domanda a breve termine. La domanda a lungo termine, che si riferisce al caso Renault, è: se effettivamente ci fosse del vero, cioè qualcun altro avesse truccato i motori per superare i test, allora forse davvero ci si deve aspettare una stretta sulle normative, sulle emissioni, e quindi un aumento dei costi nel medio-lungo termine per i costruttori per rispettarle, quindi con diminuzione ovviamente degli utili. Allora, Fabio De Rossi, poi arriverò anche col professor Berta al tema di fondo, perché insomma, però noi stessi sospetto, diciamo così, l'avevamo avuto mesi fa, a settembre, quando a fine settembre scoppiò il Dieselgate, e cioè, certo, il dato di fatto riguardava solo ed esclusivamente il gruppo Volkswagen con i suoi marchi. Però insomma, il timore da più parti paventato, ma non è che lo facessero un po' tutti, è questo che mina quella, o che crea quell'incertezza a cui faceva riferimento adesso Andrea Malan, cioè qui basta un'inchiesta. Io ho ricordato che il ministero, il dipartimento ministeriale francese, che è la controparte di Renault, ha detto che al momento non c'è nessun riscontro di queste ipotesi. Voglio leggere per correttezza, ha detto semplicemente che non hanno nessun elemento per dire che vi sia stata un'alterazione vera e propria del dato sulle emissioni come conseguenza della modifica del software. Però cioè, è da lì che tutti stiamo attendendo, sarà solo Volkswagen o no? Sì, in effetti è così, cioè, io sono d'accordo con Andrea nel mettere insieme le tre cose, diciamo i tre avvenimenti importanti della giornata. Quello che ha creato fondamentalmente il Dieselgate è stata una sorta di psicosi sui mercati, e effettivamente sia da parte dei media sia da parte di gran parte dell'opinione pubblica, ma anche degli esperti, è prevalso in una prima fase il classico "così fan tutti", ma è prevalso semplicemente per il fatto che, al di là dei defeat devices, il problema è quello delle omologazioni. Adesso forse non è il caso di tornarci sopra, però evidentemente quel tipo di omologazione affidate o a una sorta di autocertificazione o a dei cicli assolutamente fuori senso e fuori luogo per quanto riguarda un comportamento effettivo dell'auto, oppure a enti certificatori che in realtà proprio terzi non sono, ha creato sui mercati, ma anche tra le persone comuni, tra gli automobilisti, una sorta di psicosi in attesa di vedere chi sarà o sarebbe o forse non sarà il prossimo dopo Volkswagen, e questo credo si rifletta anche sull'andamento dei corsi azionari. Allora, professor Berta, poi vi farò il giro, ma insomma, sullo sfondo adesso io cercherò di capire con Andrea Marano e Fabio De Rossi quanto, per quello che a loro risulti, possa allargarsi questo scandalo, perché poi mi sembra che ho capito le pressioni sui concessionari, ma non è sullo sfondo, nel medio termine non è quella. Un po' le pressioni si fanno quando si bisogna ottenere risultati, l'importante è che siano corrette, legali. Fiat ha detto che nessun atto di citazione è stato notificato a Fiat Chrysler, e quindi, però non è che sia l'intera industria dell'auto finita in un cul-de-sac. E cioè, si era detto ai tempi della Volkswagen: guardate che per riuscire a stare dentro questi livelli è in quasi inevitabile, non dico il trucco, perché vorrebbe dire giustificare un reato, ma arrivare a spingersi a quei livelli. Cioè, non dovrebbe l'industria dell'auto fermarsi e dire: ragazzi, tanto al prossimo euro 8, euro 9, euro 10 la vendetta, non ci staremo dentro, perché poi il motore diesel funziona più o meno così, il motore benzina funziona più o meno così, bisogna ragionare su soluzioni alternative, o saremo sempre, diciamo, preda di inchieste, indagini e sotto i riflettori? Ma io avevo già notato a settembre, al momento dell'esplosione del caso Volkswagen, come ci fosse ormai evidente una tensione tra due modelli industriali, lo dico per semplificare, il modello industriale dell'automobile novecentesco, quello che cerca di ampliare quanto possibile la produzione, la ricerca fosse nata del primato da parte di Volkswagen. Ricordiamo anche che Volkswagen ha avuto questo disastro nel momento in cui era lievemente davanti a Toyota, e dunque sì, prima casa produttrice nel mondo. E un altro modello industriale, che è il modello che io chiamo, per semplificazione, anche qui un po' grossamente, californiano. Che sono i discorsi che fanno Google, Apple e Elon Musk. dire che bisogna cambiare radicalmente paradigma per l'automobile, andare verso non un altro prodotto, non un'auto elettrica che è governata da altri principi tecnologici semplicemente rispetto alle auto che conosciamo, ma un'auto che va concepita più che come un prodotto, come un servizio. Dunque che non punta tanto alla moltiplicazione delle vetture vendute nel mondo, ma che pensa proprio di fare attraverso queste auto elettriche, in prospettiva la driverless car. Proprio 3 giorni fa Elon Musk ha detto che tra 2 anni sarebbe tecnologicamente possibile salire su un'auto a Los Angeles e arrivare a New York senza prendere in mano il volante. Ecco, tutto questo, lasciamo perdere la dimensione futuribile che c'è sempre, per esempio, in tutte le affermazioni di Musk e così via, ma c'è un punto, che l'auto deve diventare molto più un servizio integrato con gli altri servizi del mobile, non tanto della mobilità fisica, ma del mobile in tutte le sue accezioni, e perciò pensare a una radicale alternativa dell'auto rispetto a quella che abbiamo conosciuto, ecco, nel secolo scorso. Chiarisco a tutti, quando si parla di auto come servizio si intende dire un passaggio, proprio una rivoluzione culturale e mentale, che non vale solo per l'auto, ma di cui l'auto è l'epicentro in questo momento, e cioè dal possesso all'utilizzo, nel senso che tu il servizio lo usi quando ti serve, come dice la parola, non è che la tieni in garage. Il possesso, adesso non possiamo fare una puntata sugli stili di consumo e quant'altro, però il possesso è anche status, il servizio non è mai status, per essere molto semplice. L'elettricità è un servizio, nessuno usa lo status o la corrente elettrica a casa, la usi quando ti serve e paghi in base al consumo. Teoricamente, l'auto è sempre stata per antonomasia, nel boom industriale del dopoguerra, il bene di status oltre che di servizio. Certo che la usavi, ma era anche soprattutto status, e su questo si è mossa l'industria dell'auto per 50 anni, quindi le prestazioni a cui faceva riferimento Berta, i modelli, il design e quant'altro. Si fa notare come battute, da qui vorrei ripartire dopo il meteo e la pubblicità, sia con Andrea Malan che con Fabio De Rossi, ovviamente anche con Giuseppe Berta, che se uno prende un'auto, si parlava della, parliamo di una Fiat, la Golf, visto che parlavamo della Volkswagen, di 10 anni fa, sì, è cambiato il design, sono cambiate le lucine, sono cambiate un po' di cose, ma sostanzialmente è la stessa auto, c'era l'ABS, c'erano le airbag e quant'altro. Se uno prende un telefonino di 10 anni fa, prende in mano un'altra cosa, cioè prende un oggetto che non ha nulla a che vedere con i telefonini che molti di noi hanno in tasca in questo momento, cioè gli smartphone. Quindi un'industria come quella dell'auto, dove il valore aggiunto è stato marginale, se vogliamo, e con questa rincorsa continua nello stare dentro i criteri che pongono le autorità, gli euro famosi, e dall'altra parte invece una rivoluzione sul valore aggiunto del bene che hai. Tu sì, lo chiami telefono, ma è tutto, ormai il telefono è una piccola parte dell'oggetto che hai in mano. Vorrei capire se questa è la rivoluzione che deve fare il mondo automobilistico, perché ripeto, magari scopriremo che Renault non ha truccato il software, ma quando usciranno nuove richieste sull'inquinamento, l'Euro 7, l'Euro 8, a mio avviso tutta l'industria dell'auto sarà di nuovo a rischio di scandali per avere forzato le emissioni. Dopo il meteo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo dare anche agli ospiti un aggiornamento, perché ha appena parlato il ministro francese all'ambiente e ai trasporti, Ségolène Royal, ha detto: nella vicenda Renault è stato osservato uno sforamento delle norme sul CO2 e l'ossido di azoto, ma nessuna frode. Ha detto la Royal: le analisi condotte sui motori di Renault e di altri 2 costruttori stranieri non rivelano l'esistenza di un software illegale per truccare le emissioni. Ma il tema non cambia, e cioè la domanda: non deve fermarsi tutto il settore? Io non voglio bloccare il settore dell'auto, ma stiamo scherzando, perché ai prossimi livelli che porrà l'Europa, porranno gli Stati Uniti, tornerà il problema di come li raggiungi e che trucchi ti inventi, sperando che siano trucchi legali, per raggiungerli. Andrea Malan. faccio due osservazioni. Innanzitutto sappiamo che c'è un dibattito molto acceso a livello europeo, per esempio, su quali debbano essere i limiti. L'industria sostiene da tempo che i limiti più recenti, Euro 6 e anche quelli futuri, sono difficilissimi da raggiungere. Si è battuta per rinviare l'introduzione, eccetera. Si è battuta anche per rinviare l'introduzione dei test più severi, perché sappiamo benissimo, ma questo lo sanno anche le autorità, che le auto che rispettano i limiti alle emissioni in fase di test non le rispettano in realtà nella guida di tutti i giorni, perché i test sono fatti in un certo modo e le auto sono tarate per rispettarli anche senza nessuna truffa. Il serbatoio vuoto, le gomme piene, praticamente un nano che guida, nel senso che deve pesare poco, sappiamo tutto, però fin lì sei al limite, diciamo, al limite della legalità, ma sei ancora nella legalità. Esatto, sono trucchi leciti, diciamo. Tutto questo è noto, quindi è in corso un dibattito e sicuramente si dovrà venire fuori con qualcosa di più, quantomeno di più credibile e che dia dei risultati condivisibili da tutti. L'altro punto che vorrei sollevare è attenzione sugli scenari futuribili, nel senso che anche noi a Detroit in questi giorni ne abbiamo sentiti moltissimi, dalla GM che ha investito 500 milioni di dollari in Lyft, che è una società tipo Uber che fa servizi appunto di noleggio auto, alla Ford che presenta tutta una gamma di servizi di mobilità, quelli di cui hai parlato tu prima. La realtà è che quest'anno nel record di vendite sono state vendute una quantità enorme di SUV, di macchine estremamente inquinanti, grazie al prezzo della benzina che qua è di 2 dollari al gallone, cioè meno di 50 centesimi al litro. Cioè, da un lato le case si devono attrezzare, si cercano di attrezzare per gli sviluppi futuri del mercato, dall'altro tutti sgomitano per accaparrarsi la fetta maggiore di un mercato che è ancora quello vecchio, quello che hai descritto tu prima, cioè con le stesse auto di 10 anni fa, e anzi, grazie paradossalmente al petrolio a buon mercato, in cui vanno molto di moda auto che inquinano più delle Golf o delle Renault che hai citato. Allora, fanno notare gli ascoltatori, Fabio De Rossi, che anche nella pubblicità, dalla pubblicità del mondo auto, fa vivere voi, fa vivere noi, per cui nessuno sta criticando la pubblicità, ma nel messaggio che spesso si manda fuori è ancora un messaggio di una volta: la potenza, l'emozione, la velocità, per carità, la sicurezza, e ci mancherebbe. Andrea Malan faceva notare che furono anche i grandi colossi dell'auto a frenare su questi limiti e su limiti ancora più stringenti. Non è che l'intero mondo dell'auto stia facendo una battaglia tra virgolette di retroguardia, cioè, sul vecchio modello? Ma io non credo, cioè credo che il mondo dell'auto intanto è fatto ovviamente di società commerciali, certo, che devono rispondere anche ai propri azionisti, e poi bisognerebbe cercare di capire, ma questo è molto complicato, cioè quanto, per passami il gioco di parole, siano i car maker a guidare le scelte degli automobilisti o viceversa, perché non bisogna scordare che comunque è vero che parliamo molto di auto a guida autonoma con tutti i progressi che vengono fatti giorno per giorno, ma anche tutti gli ostacoli che ci saranno di tantissimi tipi che magari vengono sottaciuti, cioè da quelli legali, assicurativi, alla battaglia contro i cyber criminals, eccetera eccetera. Però dall'altra parte cioè è anche da sottolineare quello che dicevate prima voi, sostanzialmente. Cioè tu dici che poi c'è anche una richiesta, che è quello che sottolineava Andrea Malan poco fa. Sì, il mondo degli automobilisti, visto dalla nostra prospettiva, è fatto sì di molte persone che hanno un contatto diretto con i nostri lettori, è fatto da molte persone molto attente all'ambiente, alle innovazioni tecnologiche, che guardano magari con favore ai futuri sviluppi dell'auto, ma è fatto anche da tantissimi appassionati che ancora pensano all'auto come non tanto un bene di lusso, ma quanto un oggetto di possesso, di passione, che pertanto continuano a guardare alla potenza, ai cavalli. No, ma adesso io non sopporto mai i manicheismi, cioè le due cose possono stare assieme, ci può essere sempre una fetta, una parte del mercato che è fatta di chi in realtà nell'auto vede appunto, io stavo cercando in maniera un po' estrema di raccontare una tendenza e una rivoluzione, ma è chiaro che ci può essere chi continua a vedere nell'auto il possesso, il lusso, le prestazioni, la velocità, ma ci mancherebbe. È però una tendenza di fondo diversa, in cui viene visto più come bene d'uso che come bene di possesso. Professor Berta, per concludere, anche perché appunto sulla vicenda Renault andremo avanti con la cronaca, ma non vorrei ridurla e limitarla a hanno sforato, ma non con il software, per cui bisogna anche i francesi come se la giocano sta cosa. Ma dico, professor Berta, sia Malan che De Rossi facevano notare che c'è la componente anche dei consumatori, che delle volte l'industria dell'auto cerca di proporre qualcosa, ma poi siamo noi ad andare verso altre richieste, quindi a dare altri segnali all'industria dell'auto. Non c'è dubbio, è molto vero ciò che è stato appena detto circa la segmentazione del pubblico. Noi abbiamo pubblici segmentati, e pubblici segmentati non solo per fasce di reddito, come è ovvio e come è sempre stato. È chiaro che è l'acquirente della Ferrari, per non dire anche la Maserati e così via, ha un altro occhio nel guidare le sue scelte. Però c'è una componente anche generazionale, che secondo me è importante, e che io in qualche misura riscontro tra i miei studenti. Voglio dire che oggi la componente emozionale legata alla vettura mi sembra, per quanto mi riguarda nel rapporto col pubblico giovanile, ed è un pubblico giovanile che non è certamente, come dire, marginale, parlo degli studenti della mia università, che è la Bocconi, entrano in gioco sempre componenti più articolate e più complesse, perché tra l'altro cresce un pubblico di consumatori che sa che non potrà guidare, gestire e comprarsi un'automobile con gli stessi criteri con cui l'hanno fatto i genitori, i padri e così via. Perciò questa componente generazionale, secondo me, è destinata a influire in generale, come è noto, sul cambiamento dei consumi, ma sul cambiamento del consumo di mobilità in modo particolare. Allora, io sono abbastanza d'accordo con lei, nel senso che questo tiene assieme tutte e due le cose, cioè il ragionamento che facevano Andrea Malan e Fabio De Rossi sul mercato attuale, e Andrea Malan faceva notare che le immatricolazioni anche negli Stati Uniti hanno coinvolto, sicuramente grazie al prezzo del petrolio, le auto tra virgolette classiche, i SUV, i grandi volumi, le auto, e anche da noi devo dire che tutto questo spostamento non si vede, con la tendenza che viene data ovviamente dalle nuove generazioni. Anch'io penso che il tasso di ricambio dell'auto a cui era abituata la mia o quella dei nostri padri, cos'era, uno ogni tre anni si cambiava l'auto, una cosa del genere, è una prospettiva che i giovani adesso non hanno, ma anche come valore che proiettano nell'automobile. Detto questo, ringrazio tutti e staremo a vedere, al di là della chiusura brutta come era immaginabile, sia a Parigi, ma per quello che riguarda casa nostra, meno 8%, adesso andiamo a commentare la borsa, meno 8% Fiat Chrysler, meno 7,30 Exor, meno 4,60 Ferrari. Racconteremo la cronaca, vedremo se in Francia si è creato un panico, tra virgolette, per nulla o non per i motivi tedeschi del Dieselgate. Il tema però c'è tutto, e temo anch'io, scusate gioco di parole, che il nervosismo resterà su tutto il mercato dell'auto. Grazie a Fabio De Rossi, vice direttore di Quattro Ruote, Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore in questo momento a Detroit, e al professor Giuseppe Berta. Traffico. Focus Economia. Allora, andiamo a commentare la borsa. No, una risposta la devo dare a un ascoltatore. Insomma, ci sono degli ascoltatori che criticano sempre, ma non si perdono una puntata. Vabbè. Che dice: lei ha detto con nonchalance, nessuno vuole criticare la pubblicità che ci fa mangiare. Grazie per questa pelle di giornalismo dalla schiena dritta. Guardi, io ho detto che uno fa la pubblicità che vuole, e ci sono dei codici etici, ma se vuole giocare la pubblicità dell'auto sulla potenza, sulle sensazioni, sull'emozione, così, ha tutto il diritto di farla, e io non vado a criticare la pubblicità che mi dà da mangiare in questo senso. Fatela nel rispetto delle regole etiche a cui deve sottostare la pubblicità in generale. Ho detto solo che la pubblicità del mondo auto molte volte, per quello che vedo io, rispecchia ancora i modelli così tradizionali, non l'utilizzo dell'auto come bene di consumo, bene d'uso e non bene di possesso. Questo era il ragionamento. Poi sulla schiena dritta, no, non si preoccupi, abbiamo appena fatto una puntata sulle auto future, criticando anche i modelli troppo tradizionali, diciamo, delle case automobilistiche, e abbiamo una pubblicità di case automobilistiche dentro il programma. Si faccia lei una riflessione, si dia una risposta, per dirla alla Marzullo. Meno 1,70% Milano, meno 1,60% Francoforte, meno 1,80% Parigi, Londra meno 0,70%, l'America più 1%, euro sempre a quota 1,08. Sulle auto non c'è molto da dire, visto che abbiamo dedicato la prima parte del programma. Guido Maurino, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Quanto ha perso invece Renault? Perché Fiat Chrysler meno 7,90%, Exor meno 7,36%, Ferrari meno 4,60%. Renault ha perso il 10,28%. Quindi ha recuperato comunque. Sì, in realtà ha peggiorato leggermente sul finale, quando sono arrivate anche le parole del governo francese, che ha sostanzialmente ammesso che ci siano stati delle frodi, delle emissioni, esatto. Ma non truccando il software, però comunque degli sforamenti. Poi, vorrei capire, insomma, lo vedremo nella cronaca, perché vorrei capire, ok, non hai beccato un software illegale, ma questo non mi fa sentire meglio, nel senso che se comunque sfori e non lo comunichi, avrei truccato i dati in un altro modo, così capisco io, però insomma, vedremo le agenzie come usciranno. Di nuovo molto forti invece oggi le banche popolari, in una giornata dove il pessimismo ha prevalso, come abbiamo raccontato. Monte dei Paschi più 1,80%, Popolare Emilia Romagna più 1,70%, hanno un po' ritracciato nel finale. Pop Milano più 1,12%, Banco Popolare, che era ampiamente positivo, chiude sostanzialmente invariato. Sì, c'è molta attenzione sul riassetto delle banche popolari, in particolare c'è molta attenzione sulla Banca Popolare di Milano, che ha guadagnato l'1,12%, mentre sta trattando su due tavoli. Da un lato tratta col Banco Popolare in vista di una possibile integrazione, ma tratta anche con UBI Banca, che invece è stata fra le poche popolari negative oggi, ha perso il 3,32%. La preoccupazione, diciamo così, per quello che riguarda UBI Banca è che se dovesse fallire il matrimonio con la Popolare di Milano, come al momento sembra probabile, potrebbe dover riaprire il dossier MPS, che infatti oggi ha guadagnato l'1,80%, ma si tratta, come è evidente, di un dossier molto, molto rischioso, per cui mentre alcune banche popolari sono andate bene, ecco, UBI ha faticato oggi. Allora, tra i titoli che vanno male c'è anche Mediolanum. Oggi Fininvest e Berlusconi hanno presentato un nuovo ricorso contro l'obbligo di vendere il 20% della quota in possesso su Mediolanum, obbligo posto da Banca Italia. Sì, c'è questo nuovo ricorso, ma intanto si attende anche una decisione del Consiglio di Stato, che dovrebbe pronunciarsi oggi proprio su questo tema. Lo ricordiamo, c'era un provvedimento della Banca d'Italia che obbligava Fininvest a scendere sotto il 10% di Mediolanum, dal momento che Silvio Berlusconi, azionista di Fininvest, aveva perso i requisiti di onorabilità necessari per gli azionisti rilevanti delle banche dopo una condanna per frode fiscale. Ancora, tra l'altro, tra i migliori e peggiori, visto che è quotata, c'è Renault meno 10-20%, ma non è il peggiore, c'è Workspace 2 che perde l'11%, poi Fiat Chrysler. Tra i migliori anche Rizzoli Corriere della Sera più 6-14%, il Sole 24 Ore più 3,5%. So benissimo che il valore del titolo è ampiamente sotto il valore di quotazione, nello specifico il titolo del Sole 24 Ore è a 0,62%. Euro, e poi Gas Plus più 2,50%. Tornando sui titoli di maggiore capitalizzazione, poi do una risposta anche all'ascoltatore che mi dice: ma come, le tendenze sull'auto le fate sui fighetti che studiano nelle università del centro di Milano? Cioè, immagino fosse il riferimento del professor Berta ai suoi studenti da Bocconi. Allora le rispondo subito: a parte il fatto che università fighetta, non università, io non lo so, non abbiamo fatto nessun sondaggio dentro la Bocconi per sapere se sono tutti fighetti, o c'è anche molta gente che si è meritata l'ingresso studiando e venendo da famiglie non abbienti, in primo luogo. Ma in secondo luogo, guardi che non è tanto lo studente da Bocconi, se lei conosce qualche diciottenne o diciassettenne o diciannovenne, si sarà reso conto che la prospettiva, il modo in cui viene interpretata l'auto, e ripeto, più come bene di utilizzo che bene di possesso, è presente in tutti i giovani. Insomma, poi magari non dove abita lei, non lo so, magari, ma noi parliamo di tendenze, ma non è il problema dei come li ha chiamati lei, dei fighetta della Bocconi. Detto ciò, torniamo a noi e andiamo su altri titoli. Oggi ci sono mossi tutti i titoli legati alle infrastrutture nelle telecomunicazioni, no?

l'inchiesta in Francia, e come si commentava anche nel corso dei mercati finanziari, nel commento sui mercati finanziari, il fatto che Ségolène Royal, ministro dell'ambiente, dica non nessuna frode, non ci sono software illegali nella vicenda Renault, ma è stato osservato uno sforamento delle norme su CO2 e ossido di azoto, non ha tranquillizzato il mercato. Andiamo adesso agli altri temi di questa giornata, e mi riferisco in primo luogo al Monte dei Paschi di Siena. Che cosa è successo? Allora, qui stiamo ragionando della vecchia gestione del Monte dei Paschi, l'ho preciso subito, e della famosa vicenda sulle perdite coperte, i conti truccati per quello che riguarda l'acquisto da parte del Monte dei Paschi di Antonveneta. Sono indagati i vecchi vertici, sono 13 persone. Oggi la Procura di Milano ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini a carico di 13 persone, tra cui gli ex vertici di Monte dei Paschi, gli ex manager di Deutsche Bank e di Nomura, quindi Giuseppe Musseri in quanto allora presidente di Monte dei Paschi, Antonio Vigni in quanto direttore generale, Daniele Pirondini in quanto direttore finanziario di Monte dei Paschi, Gianluca Baldassarri in quanto responsabile della finanza, e poi Marco Di Santo, responsabile Asset Liabilities Management e Capital Management all'interno dell'area tesoreria del Monte dei Paschi, poi Ivo Scott Dunbar, direttore Managing Director Deutsche Bank nella sede londinese, Michele Faisola, direttore generale Deutsche Bank, Head of Global Rates della Deutsche Bank di Londra, Michele Foresti, sempre Deutsche Bank di Londra, Dario Schiraldi, direttore generale della parte di Deutsche Bank, head della parte di Europe Sales Deutsche Bank a Londra, Matteo Angelo Vaghi, Deutsche Bank di Londra, Marco Veroni, direttore del Account Manager Deutsche Bank a Londra, e poi il numero uno di Nomura International, Sadek Sayed, Raffaele Ricci, responsabile delle vendite per Europa e Medio Oriente di Nomura. E poi i soggetti fisici, Monte dei Paschi, Siena, Deutsche Bank, London Branch, Deutsche Bank AG e Nomura International. Ora, si leggono delle cose interessanti, nel senso che questa indagine deriva dalle indagini scattate a Siena. Se ho ben capito, ma chiedo conferma alla nostra Sara Monaci, sulle 24 ore, chiaramente. Sara, buonasera. Buonasera. Allora, le indagini svolte si sono concluse relative alle operazioni Fresh, Santorini, Alexandria, Chianti Classico, che sono dei nomi, sì, insomma, un po', cioè, così. Un po' così, per prodotti che hanno fatto perdere, hanno fatto saltare per aria, diciamo, il Monte dei Paschi, vecchia gestione. Ma la sì, cosa, se ho ben capito, l'accusa è di aver proprio truccato i bilanci dal sì, 31 dicembre 2008 fino alla relazione trimestrale del 30 sì, settembre 2012, in cui, vabbè, il patrimonio era truccato, il risultato dell'esercizio del gruppo era truccato, il patrimonio di vigilanza era inferiore al limite minimo, la capitalizzazione era difforme dal vero. E sì, erano operazioni di maquillage, ecco, diciamo di così, trucco contabile. Sì. E tra l'altro mi ha fatto impressione, forse tu ci metterai in evidenza altri elementi, che nel bilancio consolidato del Monte dei Paschi del 2011 viene segnalata una perdita di 4 miliardi e mezzo, e dice nella chiusura delle indagini che invece a fronte di una perdita effettiva ed effettivamente realizzata pari a 6 miliardi e 35 milioni, quindi un miliardo e mezzo nascosto, tant'è che all'esercizio netto imposte invece che 4 miliardi, invece che 5 miliardi e 700 milioni venivano segnati in bilancio 4 miliardi e 600 milioni. Sara? Sì. Sì, ecco, la cosa interessante è prima di tutto che a Milano si è andati molto spediti e si è raccolto quello che erano i tanti fascicoli di Siena in un unico grande fascicolo, che poi ha tre essenzialmente capi di imputazione, oltre all'ostacolo alla vigilanza che avevamo già visto a Siena, ma a questo punto è il meno grave, appunto il falso in bilancio, soprattutto l'aggiotaggio e il falso in prospetto. Questi tre prodotti, Fresh fu utilizzato per l'acquisizione di Antonveneta, ovvero un modo per fare un finto aumento di capitale. Sostanzialmente cosa vogliamo dire? Che MPS attraverso questo prodotto, questo sorta di derivato, riuscì a realizzare con un'operazione di maquillage quello che sembrava un aumento di capitale, invece in realtà era un indebitamento. Lo fece, lo sottoscrisse la fondazione MPS, che ricordo all'epoca era il controllante, e grazie a questa operazione si acquisì la banca Anton Veneta senza poter realmente permetterselo. E questo sappiamo poi cosa ha comportato: ha comportato una perdita, perché poi Anton Veneta è risultata una scatola molto più complicata e piena di debiti, anche complice la crisi, però il costo di 9 miliardi già esoso poi si è trasformato fuori da ogni logica di mercato, tra l'altro a quel tempo si disse. La perdita complessiva è di 10 miliardi, però tu citavi lo strumento Fresh. Mentre, se ho ben capito, gli strumenti derivati Alexandria servivano, però vorrei anche anche su questo conferma, e poi Santorini per nascondere Alexandria, per nascondere un buco da 300 milioni, cioè tutti gli strumenti derivati, adesso non possiamo spiegarla, che permettevano di non mostrare le perdite effettive, diciamola così. Perché ed è per questo che vengono chiamati in causa Deutsche Bank e Nomura. Esattamente, però la questione fondamentale è che qui viene creato un unico filo conduttore. Raccontiamo brevemente: dopo l'acquisizione di Anton Veneta ci sono queste perdite che abbiamo detto crescono, a un certo punto c'è l'esigenza di far sembrare che tutto andasse comunque bene, anche per mantenere i vertici al controllo, questa è la tesi degli inquirenti. Allora cosa si fa? Si cercano dei prodotti derivati che, oltre a sistemare i conti, spezzettandoli magari, rimandando dei pagamenti, e soprattutto l'idea è quella di spezzettare i conti, facendo anche, non calcolando quindi il complessivo totale, no, ma semplicemente facendo sminuzzamenti di operazioni. Ecco, in questo modo si riuscì anche a pagare per un anno degli utili in modo insensato. Questi due prodotti erano finalizzati quindi con Nomura, Alexandria e con Deutsche Bank Santorini a fare questa operazione, che è stata proprio definita dagli inquirenti di maquillage. Ecco, queste operazioni, che sono state realizzate da una società quotata in borsa, si trasformano quindi a Milano in accuse per aggiotaggio. Ricordo che esisteva già l'accusa per truffa, sempre ai danni di Nomura, ma voglio ricordare, secondo me, un aspetto importante che ha anche una qualche sfumatura politica. A Siena non si riuscì ad indagare Deutsche Bank, era 3 anni fa, probabilmente il clima era diverso, fecero molta fatica gli inquirenti anche a trovare un capo di imputazione per Nomura, tuttavia per la banca giapponese fu possibile, tant'è vero che c'è già un processo in corso, lo ricordo, quello appunto per truffa. Oggi la novità di questi 13 indagati è che abbiamo molti indagati che non erano conosciuti, proprio dipendenti manager di Deutsche Bank. Sì, quindi io credo anche sia da sottolineare, perché evidentemente non è un'inchiesta di tipo politico, assolutamente di tipo tecnico-finanziario, però è vero anche che le inchieste vivono in un contesto, quindi oggi vediamo se ho capito, tu dici a Siena la procura ebbe molta difficoltà, non riuscì a indagare Deutsche Bank, non ci riuscì, invece a Milano c'è riuscita. Sì, c'è riuscita 3 anni dopo, però probabilmente anche il clima, dire che Deutsche Bank ha fatto una truffa, ha creato comunque dei problemi ad una banca italiana, oggi forse non è più un tabù. Indagare, ricordo 3 anni fa, 2 banche, soprattutto Deutsche Bank, lo ricordo, la prima banca tedesca, era comunque una sorta, sembrava all'epoca, una sorta di sfida internazionale. Oggi evidentemente è anche più semplice poterlo dire, chiaramente siamo all'interno di reati, lo ripeto, societari, dove i manager hanno la responsabilità penale individuale, non si parla del sistema Deutsche Bank, si parla dei nomi che ho fatto io, insomma, 5 nomi, esattamente. Però innanzitutto non c'erano, erano nomi che sono emersi oggi, a parte il primo di cui abbiamo dato anche noi notizia sul Sole 24 Ore, poi gli altri, nomi per lo più italiani, ecco, dipendenti italiani a Londra di Deutsche Bank, non comparivano. Parlavamo di Alexandria perché ha creato sicuramente dei problemi, problemi. Santorini, che ne ha creati probabilmente di più, perché appunto poi hanno transato entrambe dal punto di vista del procedimento civilistico, hanno chiuso, MPS ha trovato un accordo sia con Nomura che con Santorini, con un risarcimento parziale, diciamo, dei danni, un po' paga uno, un po' paga l'altro, ecco, per chiudere questi derivati che altrimenti avrebbero una scadenza ventennale e trentennale, certo. Ecco, con effetti imprevisti. Dimmi un'ultima cosa, Sara, adesso i tempi quali sono? Perché molti ascoltatori chiedono: ma cosa rischiano tutte le persone che hanno oggi, allora, ricevuto la notifica di chiusura delle indagini? Prima di tutto esiste il tema, è stato chiuso tutto insieme anche rapidamente, perché esiste comunque il tema della prescrizione, ricordiamolo, perché il Fresh e Anton Veneta è un'operazione che fu realizzata tra il 2008 e il 2009, io ricordo che si parlava di 7-8 anni di prescrizione, ma se contiamo siamo comunque vicini. Io credo che entro la fine dell'anno comunque si arriverà a un processo, se non concluso però ad un buon punto. Temo però che mentre per i derivati la prescrizione è in avanti, perché il derivato si conteggia per ogni anno che ha avuto un effetto, quindi se è stato chiuso l'anno scorso la prescrizione si comincia a contare dall'anno scorso, mentre invece l'acquisizione di Anton Veneta, che è avvenuta nel 2008, la prescrizione è molto vicina. Io temo che per questo capo di imputazione possa non accadere nulla. Detto questo, ricordo che i vertici Vigni, Mussari, ex presidente Mussari, sì, ex DG Vigni e Baldassare, ex responsabile finanziario, sono già stati condannati a 3 anni a Siena per ostacolo alla vigilanza, sì, sempre sul derivato Alexandria, ovvero quel famoso mandate agreement, ovvero la trasformazione di un vecchio derivato in questo nuovo derivato che si chiamava Alexandria. Ecco, questo contratto si dice venne nascosto a Banca Italia, che non riuscì a capirlo, se l'avesse capito avrebbe compreso tutta questa operazione di maquillage, ecco, che allora non sarebbe non sarebbero precipitati i conti di MPS. Ecco, per questo loro hanno già avuto una condanna in primo grado, si aspetta l'appello però. Grazie intanto a Sara Monaci. Ho il traffico. Focus Economia. È una proposta da cui stiamo lavorando da tempo, è una proposta che completa gli strumenti che già abbiamo sul terreno, come le nuove procedure concorsuali. È una proposta leggera ma efficace, quindi mi limito a dire questo. Il meccanismo della garanzia potrà essere parte della proposta. I tempi spero che siano rapidi, posso solo dire questo. Con Vestager, con la signora Vestager, c'è uno scambio continuo, ci siamo sentiti per telefono ieri, abbiamo scambi di email. I crediti deteriorati saranno valutati quando ci sarà uno scambio. Quando ci sarà uno scambio fra domanda e offerta di crediti deteriorati potremo sapere qual è il prezzo. No, in questo momento non posso dire altro perché non lo so. Si tratta di mettere in piedi un meccanismo che faciliti gli scambi. Come ogni mercato di qualcosa di nuovo, gli va dato un avvio, bisogna varare una nave che poi procede per conto suo, questa è la mia visione, e soprattutto con l'economia che migliora sarà ancora più facile. Allora, così il ministro Padoan, rientrando dall'Eurogruppo, ha spiegato appunto di aver avuto scambi continui con la commissaria della concorrenza Vestager. Il tema è la bad bank, cioè l'idea che l'Italia possa avere da Bruxelles via libera per una banca dove fare confluire i crediti deteriorati, quindi le sofferenze del sistema bancario italiano. E poi c'è anche sullo sfondo il tema anche della flessibilità, non ce n'è né troppa né troppo poca, le richieste sono dentro le norme dell'Unione Europea. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, buonasera. Buonasera. Adriana, aiutaci tu, o aiutami almeno tu, perché io non sto capendo dalla commissaria Vestager e anche dalla dichiarazione di Padoan se la posizione di Bruxelles sia attendista ma scettica o attendista ma positiva, mettiamola così, sulla bad bank. Io direi che è attendista ma scettica, ma al tempo stesso io credo che a Bruxelles prima o poi si renderanno conto di doversi arrendere l'evidenza, cioè lasciare che il sistema bancario italiano abbia quel carico di crediti deteriorati che lo destabilizza non è nell'interesse di nessuno, non degli italiani naturalmente in primis, ma nemmeno dell'Europa, nel senso che una destabilizzazione delle banche italiane avrebbe come effetto un'onda lunga anche sugli altri, insomma. Quindi siccome continuiamo a vivere sul filo del rasoio, la crisi dell'Eurozona è in una fase di crescenza ma non è certamente risolta, cominciare un 2016 con una grossa crisi bancaria in una delle grandi economie dell'euro sarebbe pura follia. Per questo credo che verranno negoziati termini duri, ma che alla fine verrà dato in qualche modo un via libera alla creazione di una bad bank. Ricordo che ormai i crediti, le sofferenze sono 200 miliardi, se però uno prende tutti i crediti deteriorati, che vuol dire anche gli incagli, le ristrutturazioni, arriviamo quasi a 400 miliardi distribuiti, 84 su Unicredit, 63 su Intesa San Paolo, 45 su Monte dei Paschi, 21 sulla Banco Popolare, 13 su UBI, 11 sulla Popolare Emilia Romagna, 6 sulla Popolare di Milano. Invece il fronte che Padoan comunque ha citato più en passant della flessibilità, perché abbiamo visto l'Europa mettere qualche puntino sulle i sulla flessibilità, sappiamo che c'è l'attesa che dovrebbe arrivare a marzo, aprile, il giudizio definitivo sulla la manovra finanziaria italiana. Ma anche qui io non ho capito, è un po' di tattica europea il dover anche salvare la faccia, oppure i dubbi sono sostanziali su come abbiamo utilizzato i margini di flessibilità che l'Europa ci dava nella legge di stabilità? Allora, l'Italia può chiedere la stabilità che sta chiedendo, è previsto assolutamente dalle regole del patto di stabilità e dall'interpretazione che le ha dato Juncker. Diciamo che agli europei non piace molto l'idea che l'Italia chieda tutta questa flessibilità su diversi fronti, però la richiesta dell'Italia è assolutamente legittima dal punto di vista legale, nel senso che nessuno ha mai detto che non si può accumulare la flessibilità. Il problema è che in Europa, come al solito, si teme che concedendo flessibilità, quindi allargando i cordoni della borsa per l'ennesima volta, il debito italiano continui ad aumentare. E questo naturalmente è un fardello sostenibile finché siamo in una situazione come l'attuale, dove c'è il quantitative easing che ci fa da scudo sull'acquisto dei titoli pubblici, dove abbiamo un petrolio che continua a scendere e quindi diciamo offre benefici alla nostra bilancia dei conti correnti. Ma in Europa si teme che se un giorno dovesse girare il vento e l'inflazione tornare al 2%, l'Italia, non avendo fatto, o perlomeno avendo fatto sforzi strutturali limitati, si possa ritrovare con uno spread alle stelle e dunque con il debito che diventa insostenibile. Sono queste le ragioni per cui diciamo si tira un po' la corda, si vuole far pesare l'Italia. Chiarissimo. Poi comunque credo che alla fine questa flessibilità verrà concessa, perché non ci dovrebbero essere ragioni per non concederla, ma forse in qualche modo lo si farà con un controllo molto stretto sull'utilizzo dei soldi, facendola anche pesare, come tu spiegavi. Molto bene, grazie anche a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Domani, ahimè, torna anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.